Guardi, è nata perché io conoscevo questo racconto, ho appreso l'esistenza di questo racconto a una lezione di Antonio Faetti, che era in specifico sulla Renata Viganò, e quindi lui mi raccontò insomma alla platea delle sue studentesse che Renata Viganò scrisse questo racconto per il Pioniere. Quindi io sono andata a cercarlo in una vecchia edizione insomma del Pioniere, l'ho proposto alle ragazze perché sapevo che loro avevano un grande desiderio, progettavano già insomma ma tra di loro, di andare nelle scuole per parlare di resistenza. Loro volevano parlare di resistenza ai più giovani di loro. Quindi questo racconto sembrava esattamente la cosa ideale, come però portarlo nelle scuole trasformandolo in un libro. Ovviamente è introvabile in una vecchia edizione del Pioniere, no? E quindi come portarlo, come farlo leggere oggi ai ragazzi e utilizzarlo appunto come punto di partenza per parlare di resistenza, trasformandolo in un libro circolante oggi, contemporaneo. È nata l'idea di farlo illustrare da Viola Nicolai, perché oggi l'albo illustrato è la forma, è il veicolo librario, libresco, diciamo più apprezzato, più amato dai bambini di quarta, quinta elementare. C'era questo interesse delle ragazze, sebbene così giovani, a parlare di resistenza. E incredibilmente non perché tra i loro nonni o bisnonni ci fossero dei partigiani morti, ma perché nella loro formazione mentale, nella loro etica, nella loro voglia di storicizzare anche a chi è più piccolo di loro. C'è da dire che hanno avuto tutte quante l'opportunità di sentirne parlare durante il loro percorso scolastico. Qualcuna di loro all'elementare ha potuto incontrare un partigiano, qualcuna di loro ha avuto la maestra che gliene ha parlato a lungo. Quindi insomma germi sono stati seminati dai loro insegnanti e credo anche dalle famiglie. Alla luce dei fatti di cronaca avvenuti recentemente, mi riferisco ad esempio alla sparatoria di Macerata contro gli immigrati o anche quella di Firenze, quindi questo nuovo impeto neofascista che sta pervadendo l'Italia, che significato ha assunto riproporre questo racconto che anche nel 1960 era rivolto ai bambini? Questo fatto di Macerata e alcuni altri insomma che ci sono stati, anche se non così gravi, dimostrano che bisogna fare qualche cosa. Ecco, è un'ulteriore conferma del fatto che queste ragazze sentano un bisogno impellente, vero, che forse dovremmo sentire in di più, di diffondere una cultura antifascista, perché sostanzialmente è questo, conoscere la storia, uno, e diffondere una cultura antifascista, due. Leggendo la storia, la Viganò scrive che la madre di Eloisa si fidava della bambina, quindi rispetto alla diffidenza del partigiano in realtà la mette al corrente dei fatti, e mi chiedevo se questo poteva essere una sorta di ragguaglio dell'autrice a dire che l'ultima risorsa quando tutto sembra perduto poi sono in realtà le nuove generazioni, ecco. Che cosa avesse in mente Renata Viganò esattamente non lo so, io non so dirle se fosse considerata come un'ultima risorsa verso i giovani. Forse no, perché in quel periodo storico non solo Renata Viganò, ma lei lo ha dichiarato fortemente, non si è mai voluta staccare dal suo bambino. Erano anni difficili e pericolosi per gli adulti e anche per i bambini, ma nonostante questo Renata Viganò ha fatto partecipare il suo bambino a questa vita rischiosa. Lei, essendo una donna, una partigiana colta e con capacità di scrittura, lo ha poi raccontato in questo racconto che si chiama La bambola brutta, quasi come una nota autobiografica. Lei racconta di una madre staffetta partigiana e di una bambina che partecipa a questa vita e a questo rischio insieme a lei. Renata Viganò ha fatto esattamente così con suo figlio Bu. Lei è andata in valle, nelle valli di Comacchio, ha fatto lei la partigiana e il suo figlio Bu, che aveva allora tra i 6 e i 7 anni, è andato con lei. Lei non se n'è mai separata. Dove lasciarlo, peraltro? A Bologna, sotto le bombe? Io penso che fosse una situazione di molte madri, ecco, non c'era il desiderio di proteggere i bambini da queste bombe, c'era il desiderio di proteggere tutti dalle bombe, compresi i propri figli, ma il bisogno impellente di andare a combattere era forte, sono i fatti della storia, insomma. Oggi, io lo so, c'è stata una madre che ha commentato, leggendo appunto La bambola brutta, ha commentato: caspita, questa madre scriteriata a mettere così tanto a rischio la vita di sua figlia. No, era quel momento storico ed era anche il far partecipare i bambini della vita di quel momento, ma forse bisognerebbe che fosse un pochino più sempre, anche adesso, insomma, io penso che noi teniamo i bambini un po' troppo separati, ma non credo di pensarlo soltanto io, sono separati con l'intento di proteggerli, li separiamo dalla vita vera, sono sempre un pochino a lato, non sanno mai le cose importanti, vengono nutriti di nozioni, informazioni, certo, nella scuola moltissimo, nelle case, fanno tante cose, però vengono un pochino tenuti sotto una campana protettiva. Renata Viganò aveva anche un atteggiamento verso l'infanzia sicuramente coinvolgente in termini più ampi, perché è vero che questo è il suo unico racconto scritto per i bambini, però nella sua vita lei si è dedicata all'infanzia moltissimo. Ha lavorato, prima di fare la giornalista e la scrittrice, per molti anni nel brefotrofio di Via D'Azeglio, quindi è stata con i bambini anni e anni e anni come infermiera. Poi, quando è diventata giornalista, ha scritto degli interventi in favore dell'infanzia straordinari, degli articoli di denuncia, non so, ce n'è uno che si intitola In Via D'Azeglio è Medioevo, laddove si insiste sul tenere questi bambini lontano dalla cultura, per esempio. Lei dice che questi bambini dovrebbero andare a scuola come tutti gli altri, gli orfani. E poi nella sua vita lei ha adottato un bambino che ha amato insieme a suo marito, insomma, amatissimo, era un bambino adottato. La sua attenzione verso l'infanzia è sempre stata a 360 gradi, nella vita privata, nella vita pubblica, sociale, è sempre stata molto attenta.